Cortina a Capodanno, polemiche per la cata agli evasori. Parte dall'Iowa la corsa per le presidenziali americane nella notte del primo test che 3 anni fa incoronò Obama. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Ora è di lavoro per il governo Monti in attesa degli incontri la prossima settimana con le parti sociali, ma intanto un primo stop arriva questa mattina dalla CGIL. Allora facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il sindacato guidato da Susanna Camusso chiede al governo di non convocare separatamente i sindacati perché, viene spiegato, gli incontri separati stile Sacconi rendono solo tutto più complicato e più lungo. La CGIL sceglie Twitter per rendere note le sue condizioni per il confronto. Quanto al tema del lavoro, la Confederazione di Corso d'Italia aggiunge: serve un piano che tamponi la crisi, crei nuovi posti per giovani e donne e dia prospettiva e speranza al paese. CISL e UIL ricordano intanto all'esecutivo Monti la priorità del dialogo e della concertazione per uscire dalla congiuntura e per evitare pericolose tensioni sociali, tema questo su cui interviene oggi anche il cardinale Bagnasco. Le tensioni sociali, dice il presidente della CEI, sono sempre possibili ma non fatali. La via del dialogo tra diversi soggetti, aggiunge, è molto importante. Altro capitolo, le indiscrezioni sui progetti di intervento sul mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. L'obiettivo di Palazzo Chigi è superare il dualismo tra chi è tutelato e chi non lo è. Si starebbe pensando per questo ad un contratto graduale, un mix tra part-time e pensione, capace di accompagnare l'allungamento della vita lavorativa e le future uscite flessibili per il pensionamento. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E preoccupa intanto l'escalation di minacce a Equitalia, l'ultimo caso diretto a Torino, mentre a Capodanno è scattato un blitz contro l'evasione fiscale a Cortina. Proseguono le indagini sugli atti intimidatori contro Equitalia. Gli inquirenti stanno concentrando le loro ricerche nell'area anarchica. Ieri, dopo diversi atti intimidatori, attentati e minacce nell'ultimo mese, la sede torinese di Equitalia, la società incaricata della riscossione delle tasse, ha ricevuto una busta contenente un proiettile. All'interno anche un biglietto che riportava la firma Anarchia. All'atto intimidatorio è seguita una serie di polemiche scatenate dalle frasi del comico e ispiratore del movimento politico 5 Stelle Beppe Grillo, che sul suo blog ha scritto: bisognerebbe capire le ragioni oltre che condannare le violenze. Non fa ridere, ha replicato il presidente di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Condanna unanime anche dalla politica. Intanto in questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli a Cortina, mandando una task force di 80 ispettori nella località dove anche simbolicamente si concentrerebbero i ricchi del paese in questa parte dell'anno. Un blitz che ha sollevato qualche perplessità in una città che, guarda caso, in questi giorni ospita anche il direttore dell'agenzia Befera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa a due velocità intanto nella crisi, quella che sembra emergere dai dati arrivati sul fronte dell'occupazione. Il tasso di disoccupazione in Germania è sceso infatti a dicembre al 6,8%, minimo dalla riunificazione, e si prevede un numero di senza lavoro nel 2012 in media appena sotto i 3 milioni. Di segno opposto la Spagna, che registra invece il record dei disoccupati. I senza lavoro nella penisola iberica hanno toccato i 4 milioni 422 mila, livello in negativo mai raggiunto prima. Abbiamo chiesto a Francesco Daveri, professore di politica economica all'Università di Parma, se si possa davvero parlare allora di un'Europa a due velocità, con un sud che arranca e un nord pronto a uscire dalla crisi. Credo che sia un buon riassunto di quello che sta succedendo in Europa, non solo in dicembre o in novembre, ma ormai da un paio d'anni. Abbiamo che l'Europa del nord, che è quella che è più solidamente integrata nei processi di globalizzazione, che è così guidata dalla Germania, ma che ha intorno i paesi che erano una volta dell'area del Marco e poi i paesi nordici che stanno andando molto, molto bene, a cominciare dalla Svezia, che è pure fuori dall'area euro ma che comunque è dentro l'Europa. Insomma, tutta quest'area è un'area di vincitori, cioè di gente che è uscita dalla recessione del 2009 e che ha un'economia, ha economie che crescono del 3% l'anno o a qualche cosa di meno, e che quindi produce dei risultati molto positivi sul mercato del lavoro. Prima di tutto la Germania, che ha appunto 41 milioni di occupati e un tasso di disoccupazione che è sceso sotto il 7%, che per i tedeschi è un tasso inusualmente basso. Dall'altro lato abbiamo l'Europa del Sud, che invece continua a dare risultati che sono molto più negativi. Intanto è ormai un dato acquisito che va all'Italia il record degli stipendi dei parlamentari in Europa. L'Istat nelle ultime ore ha pubblicato le stime attese per procedere al taglio degli indennizi. Che i nostri politici non se la passassero male gli italiani lo avevano capito da tempo, ma ora a certificarlo è anche la commissione guidata dal presidente dell'Istat Giovannini, l'organismo incaricato di fare chiarezza proprio sui loro stipendi per adeguarli alla media europea. In base al rapporto reso pubblico ieri risulta così che i nostri parlamentari si mettono in tasca il 60% in più rispetto ai loro colleghi del vecchio continente, circa 16.000 euro lordi al mese contro i 13.500 di un deputato francese, i 12.600 di uno tedesco, fino ai 4.630 euro di un deputato spagnolo. Se gli stipendi sono fra i più alti, il costo complessivo dei parlamentari in altri paesi risulta però superiore. In Francia e Germania, ad esempio, possono contare su più soldi per i portaborse, che a differenza dell'Italia non vengono tuttavia pagati direttamente dai politici. Ma il vero problema è che le voci individuate dalla legge per calcolare una media europea sono difficilmente comparabili, troppe ambiguità nella loro formulazione, ma anche troppe differenze fra paese e paese, tanto che la Commissione Giovannini ha di fatto rinunciato alla definizione di quel livello medio che doveva servire per calcolare la riduzione degli stipendi dei nostri parlamentari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora notizie positive dalla borsa in questo inizio d'anno. Continua oggi il segno positivo per Milano. Piazza Affari in questo istante guadagna lo 0,7%. Ultima pagina, troppo simili i testi d'accusa del GIP e della Procura, così il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa Nostra Totò, avvenuto il 14 novembre scorso. Il GIP, scrive il Giornale di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta d'arresto, incappando peraltro in una serie di errori e non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole questo PM con questo GIP. Gaetano Riina rimane comunque in carcere per altre inchieste. Ai massimi ancora il prezzo della benzina, questa mattina nuovi aumenti dovuti alle imposizioni fiscali, e la verde nelle regioni del centro è arrivata a quota 1,8 euro al litro. Luca Squeri, presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti, al microfono di Gigi Donelli. Prima di cui stiamo discutendo adesso è un aumento di tasse che ci ha portato a essere primi in Europa, tant'è che siamo anche i primi in Europa come prezzo alla pompa. Se poi consideriamo che ci sono alcune regioni che dal 1 gennaio hanno applicato l'addizionale di tasse sulla benzina, abbiamo regioni come la Toscana che dal 1 gennaio ha aumentato di ulteriori 5 centesimi le tasse, e le Marche addirittura sono arrivati a 7 centesimi e mezzo. Insomma, abbiamo una situazione ormai dove su un litro di benzina, su 170 monetine da un centesimo, 100 sono di tasse. Speriamo che per i prossimi anni lasciano in pace questo prodotto, che è davvero diventato un grande problema per noi gestori. Voi sapete che noi abbiamo un margine fisso, per cui quando aumenta per noi sono solamente oneri finanziari maggiori. Noi non gioiamo, anzi siamo i primi a essere penalizzati, per l'appunto, perché aumentano gli oneri finanziari. A tenere sotto pressione il prezzo della benzina anche il prezzo del petrolio. Con la crisi tra Stati Uniti e Iran, a New York il prezzo del greggio è schizzato oltre i $100 al barile. Crisi quella nel Golfo che non sembra allentare. Concluse le esercitazioni militari, arrivano infatti nuove intimidazioni questa mattina di Teheran. Il capo delle forze armate iraniane ha detto che l'Iran agirà se una portaerea americana tornerà nel Golfo. E c'è un'altra notizia appena battuta dalle agenzie: nel centro di Tripoli si registrano scontri armati, a riportarlo un giornalista della France Press che cita testimoni senza fornire però indicazioni sulla natura degli scontri. Naturalmente vi terremo aggiornati. Ora invece andiamo negli Stati Uniti, dove torna al lavoro da oggi il presidente Obama, di ritorno dalle vacanze alle Hawaii, ma si guarda soprattutto all'Iowa, dove partirà questa notte la lunga maratona elettorale per la nomination repubblicana per le prossime presidenziali. Chi emergerà per sfidare Obama? Dall'Iowa, Christian Rocca del Sole 24 Ore. Al momento in vantaggio c'è l'ex governatore del Massachusetts Mitt Romney, ma i sondaggi in realtà lo danno in una specie di parità statistica, perché Ron Paul, prosegue con soli 2 punti di percentuali di svantaggio, e subito dopo c'è l'ex senatore della Pennsylvania Rick Santorum, il quale negli ultimi giorni è dato in forte salita, per cui al momento non si sa ancora, non c'è un vero e proprio candidato favorito, però uno di questi tre questa notte, quando si apriranno i caucus intorno alle 2, alle 3 di notte italiana, uno di questi tre alla fine risulterà il vincitore. Per il 2011 la parte dell'8 per 1000 destinato alle esigenze dello Stato andrà a protezione civile e alle carceri. La decisione è stata comunicata ieri sera da Palazzo Chigi. Sono circa 145 milioni di euro, di cui 64 milioni destinati alla flotta aerea antincendi e 57 milioni all'edilizia carceraria. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone. Bisogna vedere, pensate che, nel senso che va bene se diciamo si prevede che una quota dell'8 per 1000 vada, diciamo, per il sistema penitenziario, meno bene se, diciamo, come posso dire, l'obiettivo è quello dell'edilizia penitenziaria, è un obiettivo che prevede solo storno di fondi e progetti mai realizzati. Questa è la storia degli ultimi tempi, la storia italiana, la storia di 20 anni di edilizia penitenziaria. Se invece quei fondi fossero utilizzati ad esempio per creare quelle basi di recupero sociale utili a far uscire delle persone che altrimenti muoiono in carcere perché fuori non hanno niente, come è successo ieri a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia, una persona morta in carcere perché nessuno la faceva uscire in quanto non aveva alcun riferimento comunitario all'esterno, ma aveva ampiamente finito di scontare la pena nell'ospedale psichiatrico giudiziario da anni, e allora questo andrebbe bene. Ecco, bisogna vedere per farne che. Aria di crisi anche per la maratona di New York. Correre quest'anno costerà più caro. Le tariffe per partecipare saliranno dal 24 al 39%. L'aumento dei prezzi è legato alle richieste più onerose del New York Police Department, che per recuperare i costi di straordinari uomini dispiegati per la città per garantire la sicurezza dell'evento ha chiesto una cifra maggiore agli organizzatori. A riportarlo questa mattina al New York Times, le iscrizioni aperte ieri sono state comunque già elevate, 17.500 nelle prime 5 ore. Ti stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rincontriamo finalmente. Addio allo spadaccino di Hollywood. È morto, 89 anni, Bob Anderson, un nome che dice poco se non agli addetti ai lavori, ma che in realtà abbiamo visto più volte sugli schermi. Si devono a lui nelle parti di Stuntman alcuni dei più grandi duelli della storia del cinema, prima tra tutte quelle di Guerre Stellari che state sentendo, lui in realtà l'uomo dietro la maschera nera, ma anche in molte scene del Signore degli Anelli. Ex campione olimpico britannico, partecipò ai giochi del 1952. Anderson è morto a Londra. E per noi questa era l'ultima notizia di questa edizione di GR24. Pietro Lacorte in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.